Secondo Diogene Laerzio, Socrate ebbe un discepolo di nome Fedone che scrisse un dialogo intitolato Zopiro o Zopiro. Questo Zopiro, mettiamola sullo Zopiro, questo Zopiro avrebbe dovuto essere un tale, un siriaco, con una sua teoria grazie alla quale poté dichiarare che Socrate aveva una natura impulsiva oltre ad un mucchio di altri difetti. Questa sua teoria praticamente sosteneva che alla peculiarità fisiche degli esseri umani corrispondono determinati aspetti del loro carattere. Grosso modo, da quel che possiamo capire noi oggi, si trattava di una sorta di fisionomica con più di 2000 anni di anticipo. Ciò ci fa comprendere come certi errori gravi del mondo moderno sono ancora più gravi perché in realtà sono stati già compiuti. Quel Zopiro, che esercitava le sue arti 500 anni prima della nascita di Cristo, sarebbe stato orgoglioso di aver avuto come discepoli un dottor Gall o un professor Lombroso, tardivi quanto volete, ma pur sempre discepoli. È su queste tracce che nasce la criminologia, anche se come scienza istituzionalmente riconosciuta ha bisogno di attendere le cosiddette società evolute dell'era industriale, dove per chi si negava all'organizzazione del lavoro erano belle pronti carceri e ospedali psichiatrici. La criminologia, così come la conosciamo oggi, ha sempre pencolato fra una concezione individualistica e una concezione collettivistica della natura del crimine. Da una parte chi ritiene, nel nome di un'arcata sopraccigliare, che so, di un labbro leporino o di un frammento di DNA, chi ritiene che il crimine abbia origine nell'anatomia della persona. Dall'altra parte chi ritiene invece, nel nome di un padre alcolizzato, o di una madre degenere, o di un quartiere emarginato, che il crimine trovi il suo miglior brodo di cultura nell'ambiente sociale. Che non abbia mai vinto del tutto né l'uno né l'altro di questi contendenti è esperienza quotidiana di tutti quanti. Che non si dichiari mai il criterio con cui non si dà ragione piena né all'uno né all'altro è poi motivo di cruccio per chi nella giustizia vuole vederci chiaro e motivo di arbitrio per chi della giustizia sa servirsene per mantenere intatto il proprio potere. Io che ho sempre molti dubbi sulla natura criminale di molte persone individuate e stigmatizzate come tali e che ho sempre altrettanto dubbi sulla natura innocente di molte persone stimate e rispettate, ho sempre guardato al lavoro del criminologo con un misto di stupore e curiosità. Stupore per la sua sicurezza nel saper dire cosa sia o non sia criminale. Curiosità nei confronti delle procedure che usa per giungere a tali sicurezze. Orbene, da quanto pubblicato sui giornali nei giorni scorsi, un'idea sui criminologi e sul loro lavoro ho potuto ben farmela. Mi riferisco al noto caso del signor Broccoletti, dirigente attualmente in disgrazia dei nostri servizi segreti e il signore questo Broccoletti che afferma fra l'altro due cose. Primo, che ad ogni ministro dell'interno veniva mensilmente consegnata una bustina con 100 milioni per farne quel che riteneva più opportuno. Prima cosa. Seconda cosa che mi sembra sostenga è che per evitare che la prima cosa si sapesse ci furono varie riunioni fra alcuni interessati. Ecco, il fatto che uno di questi interessati fosse l'ex ministro dell'interno, onorevole Scalfaro, oggi Presidente della Repubblica, un altro fosse l'onorevole Mancino, oggi Ministro dell'Interno, un altro il dottor Parisi, capo della Polizia, più altri dei servizi segreti fra i quali il Broccoletti medesimo, è un fatto non del tutto trascurabile e comunque da tenere presente. Vabbè, andiamo avanti, cioè andiamo a queste riunioni, chiamiamole così, di copertura. Secondo i giornali, Broccoletti avrebbe detto che si svolsero al Quirinale. E qui, finalmente, entra in ballo il criminologo. docente dell'Università La Sapienza di Roma, poveri studenti. Entra in ballo il criminologo e dice: al Quirinale, riunioni al Quirinale, ma no, impossibile, inverosimile, Broccoletti mente. Qui si vede chiaramente che Broccoletti mente, l'Italia è salva, sì, perché, ma perché sono inverosimili queste riunioni? Dunque, perché qualunque agente segreto, dice testualmente questo criminologo, qualunque agente segreto sa che se vuole incontrarsi con qualcuno senza dare nell'occhio deve dare appuntamento in un posto molto frequentato, assolutamente anonimo. Questo a livello di teoria. Ma il criminologo, come ogni buon scienziato, non si ferma alla teoria e arriva alla pratica. Per incontri di questo tipo, dice ancora allora questo professor Francesco Bruno, ed io e lo Stato gliene renderanno merito, per incontri di questo tipo ad un luogo come il Quirinale si preferisce in genere la standa. Io devo confessare di essermi alzato dalla sedia e di essere andato alla finestra in cerca di un po' più di luce. C'era proprio scritto standa. Ve l'immaginate, mi domando io, ve l'immaginate Scalfaro, Mancino, Parisi e gli agenti segreti riuniti alla standa, che so, con l'aria, non so, con l'aria indifferente di fronte al bancone di maglieria intima, o ciascuno munito del proprio carrello nel reparto alimentari, e passerebbero inosservati. E passerebbero inosservate anche le 250 guardie del corpo armate fino ai denti e con giubbotto antiproiettile che si porterebbero dietro. Di certo che sopparlerebbero sommessamente, palpando con sagacia la merce in esposizione, sbuffando all'unisono con la sciura appena sopraggiunta per gli aumenti dei prezzi, facendo poi la fila alle casse in ordine sparso e raccattando scrupolosamente i bollini per non insospettire le cassiere. Non so, il criminologo la saprà anche lunga su certe categorie di criminali, soprattutto su quelle che compiono le loro migliori efferratezze nei romanzi d'appendice, ma su altre più drammaticamente attive nella nostra vita quotidiana, questo criminologo, scusate, ma ha ancora parecchio da imparare. La standa può garantire l'anonimato a me e a poveri diavoli come me, non a loro. Loro resterebbero anonimi alla standa per tanto tempo quanto io rimarrei anonimo sulla poltrona del Quirinale.